Storie italiane. Cenerentola. Tanto tanto tempo fa, la moglie di un uomo ricco si ammalò. E quando ella sentì vicina la sua fine, chiamò a sé vicino al suo capezzale la sua unica figlia Cenerentola. Cara figlia mia, quando io non ci sarò più, continua a essere buona e il buon Dio si prenderà cura di te. Oh, bambina adorata, come farò senza di te? Io ti osserverò dal paradiso. Dopo queste parole, chiuse gli occhi e morì. La fanciulla tutti i giorni piangeva sulla tomba della madre. Il padre di Cenerentola partì per un lungo viaggio di lavoro. Decise di risposarsi in modo che potesse avere qualcuno che si prendesse cura di Cenerentola. Si sposò con una vedova che aveva due giovani figlie. Da quel giorno la dolce Cenerentola visse con la matrigna cattiva e due sorellastre cattive. Queste trattavano molto male Cenerentola. La trattavano come una serva e lei doveva sbrigare le faccende di casa. Un giorno Cenerentola stava spazzando il pavimento, mentre le due sorelle erano sedute sul divano a mangiare della frutta. Dopo aver mangiato, una delle sorelle gettò le bucce di banana a terra. La matrigna entrò in salotto e vide che il pavimento era ancora sporco. Cenerentola, pulisci immediatamente il pavimento. Sei una ragazza pigra. Non riesci a fare una sola cosa in modo corretto? Sì, madre. Lo farò subito. Scusatemi. La povera Cenerentola doveva cucinare e lavare i piatti. Madre, posso mangiare anch'io qualcosa? Sì, puoi mangiare gli avanzi dopo che noi abbiamo finito. Oh, non iniziare di nuovo con questa lagna. Vai subito a lavare i piatti. Cenerentola raccolse tutti i piatti e li pulì. Lei dormiva nella soffitta. Ogni notte Cenerentola non dormiva dalla fame. La vita di Cenerentola non era facile. Due topi e un uccellino decisero di fare amicizia con lei. Un giorno il re decise di organizzare una grande festa ed invitò tutti gli abitanti del regno. Il re voleva che suo figlio scegliesse la sua sposa tra le invitate. Il re mandò un invito a tutte le giovani fanciulle per il gran ballo al palazzo reale. Popolo del regno, ho un messaggio da parte del re. Ognuno di voi è invitato al gran ballo il sabato della prossima settimana. In questa occasione si sceglierà la principessa per il principe. Tutti erano felici e saltavano per la gioia. Anche Cenerentola era molto felice ed eccitata. Da sempre desiderava vedere il palazzo del re. Le sorellastre di Cenerentola si preparavano per l'evento. Forza, ragazze, iniziate a prepararvi. Voglio che il principe sposi una di voi. E tu, Cenerentola, aiutale a prepararsi. Le mie ragazze saranno come delle principesse. Una di loro sta per sposare il principe. Oh, mamma, il principe mi sposerà! Cenerentola, sistemami i capelli e aiutami a vestirmi! No, Cenerentola, vieni qui da me! Io sposerò il principe! Cenerentola era molto gentile ed aiutò entrambe le sue sorellastre. Desidero anch'io andare al ballo. Madre, posso venire anch'io? Ho molta voglia di vedere il palazzo e partecipare alla festa. No! Guardatela! La sguattera non ha nemmeno un vestito. Vuoi che la gente rida di te? Mi metti in imbarazzo davanti a tutto il reame. Come osi chiedermi una cosa del genere? Le sorellastre e la matrigna uscirono per recarsi al gran ballo. Cenerentola rimase a casa da sola a piangere. Si ricordò che aveva un abito da sposa di sua madre. Però era tutto strappato. decise di rammendarlo. I suoi piccoli amici, l'uccellino e i topi, cominciarono ad aiutarla. Questo lavoro richiede tanto tempo. Fino a che sarà pronto, la festa sarà finita. Improvvisamente apparve la fata madrina. Non piangere, Cenerentola. Ti aiuterò io, mia piccola. Ah? E tu chi sei? E tu come puoi riuscirci? Questo vestito è tutto strappato e non ho un abito da indossare per il ballo. Non ti preoccupare, piccola bimba mia. Ghili, ghili, boom! I vecchi vestiti di Cenerentola si trasformarono in un bellissimo abito nuovo e ai suoi piedi apparvero delle scarpette di cristallo. I suoi amici topi saltarono su una zucca. Ghili, ghili, magicamente la zucca si trasformò in una bella carrozza. I topi divennero dei cavalli per trainare la carrozza e l'uccellino si trasformò in un cocchiere. Fata madrina, le mie sorellastre e la mia matrigna sono al ballo. Si arrabbieranno se mi vedono lì. Non ti preoccupare, la mia grande magia ti aiuterà. Oh, grazie, fata madrina, sei molto gentile. Ma ricorda, Cenerentola, la magia durerà solo fino alla mezzanotte. Devi tornare a casa presto. Ah, sì, fata madrina, me ne ricorderò. Cenerentola, molto felice, andò al ballo. Quando entrò nella sala da ballo, tutti gli invitati si voltarono verso di lei. Le sorellastre e la matrigna non potevano riconoscerla. Ma che bella fanciulla! Il bel principe notò quella fanciulla e si innamorò di Cenerentola a prima vista. Si avvicinò. Leggiadra fanciulla, posso avere l'onore di invitarla a danzare? Sì, certamente. Il principe non ballò con nessun'altra. Non riusciva a staccare gli occhi da Cenerentola. Cenerentola ballò tutta la notte con il principe e quasi dimenticò che stava scoccando la mezzanotte. Tutto a un tratto si ricordò le parole della fata madrina. L'orologio attirò la sua attenzione. Ora devo andare a casa. Ma è solo... Mentre correva, una scarpetta di cristallo le scivolò dal piede. Lei non fece in tempo a tornare indietro perché vide che il principe correva dietro di lei. Si sedette nella carrozza e se ne andò subito. Il principe vide la sua scarpa e prontamente la raccolse. Ma perché è scappata da me? Era mezzanotte e la magia stava svanendo, perciò la carrozza scomparve e si trasformò in una zucca. Cenerentola prese una scorciatoia e corse, riuscì a raggiungere la sua casa. Io devo trovarla. Anche a costo di girare tutto il regno, il lungo e il largo. Voglio trovare quella ragazza. Di sicuro ci riuscirò. Il principe insieme ai suoi uomini partirono alla ricerca della misteriosa fanciulla e bussarono di porta in porta. Ogni ragazza del villaggio doveva indossare la scarpetta, ma la scarpetta non si adattava a nessuno. Finalmente raggiunsero la casa di Cenerentola. Benvenuto, Sua Maestà. Cara signora, c'è qualche ragazza in casa che è venuta al ballo ieri sera? Sì, le mie due figlie hanno partecipato al ballo. Le sue figlie devono indossare questa scarpetta. Siamo alla ricerca di una ragazza che l'indossava. Oh, una delle mie figlie deve aver indossato questa scarpa, sicuramente di una di loro. Le due sorelle provarono la scarpetta di cristallo. Cercarono disperatamente di far entrare il piede dentro la scarpa, ma non riuscirono. Signora, ma c'è qualcun altro in casa? Oh, no, no! Io ho solo le mie due care figlie! La matrigna aveva chiuso in soffitta Cenerentola in modo che non potesse provare la scarpa. Dobbiamo controllare tutta la casa! Uno dei soldati si accorse che la porta della soffitta era chiusa a chiave. Ci deve essere qualcuno qui dentro. La matrigna lo seguì. No, no, non c'è nessuno qui. Non c'è bisogno di sprecare il vostro tempo, mio signore. Il soldato ruppe la serratura ed entrò. Con sua grande sorpresa vide una ragazza seduta vicino alla finestra. «Ho trovato una ragazza!» Il principe e i suoi soldati fecero provare la scarpetta Cenerentola. La scarpa calzò perfettamente nel piede di Cenerentola. La cattiva matrigna si arrabbiò. «Oh, finalmente ti ho trovata! Qual è il tuo nome?» «Cenerentola!» Il principe si inginocchiò, la guardò e le chiese: «Cenerentola, mi vuoi sposare?» «Sì, sì!» Il principe le prese la mano nella sua e la baciò. Poi tornò indietro al palazzo insieme a Cenerentola. Il re e la regina furono molto felici di incontrare Cenerentola. Invitarono il padre di Cenerentola per decidere il giorno del matrimonio. Cenerentola e il principe si sposarono e vissero felici e contenti.